si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Uptown funk you up, uptown funk you up, 'cause uptown funk don't give it to you, 'cause uptown funk don't give it to you, don't believe me, just watch. Eccoci qua, buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno e buona domenica a tutti. Allora partiamo, 8.30 fino alle 10 insieme con Si Può Fare, 800 24 00 24, come sempre, per intervenire in diretta con noi, per commentare quello che sentite, per raccontarci le vostre buone notizie, le buone pratiche della settimana della vostra città. Anche qualche favola che qualcuno ieri abbiamo fatto, questo un gioco bellissimo in cui chiedevamo a voi di raccontarci le vostre favole, quelle che avete inventato voi per i vostri figli. Se qualcuno ieri non è riuscito a prendere la linea, oggi lo accettiamo. Va ancora bene, va ancora bene. Però, come sempre la domenica, giochiamo a cercare un personaggio della settimana. E così facciamo anche un riepilogo delle notizie dei protagonisti di questa settimana. A un personaggio che spesso è un personaggio di tipo Si Può Fare, altre volte magari meno, è un personaggio della cronaca in generale, legato a una notizia, legato di questa a una settimana. Notizia, vado subito col primo indizio, va, così cominciamo a scaldare il numero verde 800 24 00 24. Il personaggio ha realizzato un'impresa ed è un Si Può Fare, c'è poco da fare quando, si può fare, quando uno realizza un'impresa è quindi spesso uno dei nostri indizi, appunto perché sono, esatto, dei Si Può Fare. E anche oggi in palio due biglietti del catalogo della mostra Barbie a Mudec qua di Milano, una delle mostre organizzate dal gruppo 24 ore. Allora, ieri in rassegna stampa, Carlo, prima che tu entrassi in onda, avevo letto la notizia dell'arresto di El Chapo, uno dei capi, certo, dei Narcos. Ha scritto Saviano, l'abbiamo tutto letto, sì, su 000, e comunque lui ha scritto un pezzo anche ieri. Avevo fatto mettere la musica di Star Wars, la lotta tra il bene e il male, e avevo parlato della notizia da film, perché in effetti c'è stato anche un film, Traffic, credo che fosse, no? Certo, quello. Con Benicio del Toro. Che era un po' la sceneggiatura di questa storia, non è aerei, elicotteri, droni, l'arresto del Chapo. Hai visto adesso che è venuto fuori la notizia che Sean Penn incontrò El Chapo, voleva fare un film. Ah no, questo non l'avevo... Uscita fuori proprio, è un racconto. Ma anche perché lui era scappato, giusto? Il Chapo era scappato a luglio, giugno, mi sembra, e poi è stato... Pericolosissimo, ripreso. Latitante, già scappato due volte, e adesso si teme che possa scappare una terza, certo, volta, quindi... Comunque tu sei fermo a Traffic, ma in realtà è Narcos la serie. No, giustissimo. Quello, sì. Sì, però Narcos è la serie del momento che parla, in realtà poi di tutti gli altri parla... Va bene. Allora, andiamo ad iniziare. Vi aspettiamo 800 24 00 24. Ripetiamo, cerchiamo un personaggio della settimana, una persona che ha realizzato una impresa. Cominciamo anche a ripercorrere un po' le notizie di questa settimana. Cominciamo dal tema del test della bomba all'idrogeno in Corea del Nord. Un annuncio, poi ci sono state anche delle immagini successivamente di un altro test nucleare fatto sempre dalla Corea del Nord. Con le immagini anche della parata con la quale i leader coreani hanno festeggiato e sottolineato questo momento, che è stato un momento di un po' di terrore nel mondo, diciamolo, perché insomma, un regime come questo che fa, anche se qualcuno mette in discussione che la Corea del Nord sia effettivamente in grado di avere l'arma nucleare. In Italia tutto questo si traduce in che cosa? Nel ricordare a chi, come Matteo Salvini, dopo un viaggio qualche tempo fa in Corea del Nord, aveva parlato di un paese quasi idilliaco, dove c'è un gran bel senso di comunità. Mi sono andato a rivedere le interviste che aveva fatto allora. L'embargo contro la Corea è una idiozia, è un paese nel quale si vive bene, eccetera, eccetera. E poi è stato chiesto subito dopo a Salvini: beh, allora adesso come la mettiamo? Sentiamo. Che il leader nordcoreano sia un problema e un pericolo è chiaro ed evidente a chiunque in giro per il mondo. Che il modo migliore per riportarlo a ragione sia isolarlo ulteriormente piuttosto che dialogarci, questo è discutibile. C'è qualcuno che propone perfino di dialogare con l'ISIS, quindi c'è qualcuno che pensa a dialogare con l'ISIS, penso che sia preferibile dialogare anche con la Corea del Nord, che visitai a spese mie in una settimana di vacanza, visto che è un paese dove non ci sono i telefonini, non c'è internet, non c'è la radio, non c'è la televisione, quindi è una sorta di museo. Volevi di commentare? No, ero interessato a dire non ci sono i telefonini e quindi è una sorta di paese esatto, no, ma perché ricordo che quando Salvini andò in Corea scrisse una lettera e che consegnò ed era in realtà una lettera per il leader massimo, e quindi saremmo curiosissimi di sapere che cosa c'era scritto in quella lettera per il leader massimo scritta da Salvini quando andò in Corea in vacanza. Altro tema di questa settimana, altra notizia di strettissima attualità, è invece quella tutta proprio di casa nostra, che ha investito, diciamo la bufera che ha investito il Movimento 5 Stelle con le intercettazioni che hanno riguardato il sindaco di Quarto, Capuozzo, Rosa Capuozzo. La vicenda è un po' complessa, diciamolo, però cosa succede? Succede che nelle intercettazioni di una inchiesta sul voto di scambio condotta dal pubblico ministero Woodcock viene fuori che un consigliere Giovanni De Robbio, eletto il presidente del Consiglio Comunale dei 5 Stelle, è indagato per voto di scambio, aggravato dal fatto, diciamo, di avere fatto pressioni a favore di un clan camorristico, i Polverino. Giovanni De Robbio in realtà è stato espulso dai 5 Stelle, mentre il sindaco mi pare di no, Rosa Capuozzo. No, è sempre lì, stata difesa anche da Grillo, però insomma il sospetto è quello di avere preso i voti della Camorra. Sentiamo qualche sera fa come ha risposto alla domanda su questo, proprio a Radio 24, a Effetto Notte, con Roberta Giordano, Rosa Capuozzo. I voti della Camorra non li vuole nessuno, e ovviamente soprattutto non li vuole il Movimento 5 Stelle, ma noi abbiamo avuto un plebiscito, abbiamo avuto il 70% di voti, abbiamo avuto 10.000 voti, quei voti non sono voti tutti di voti camorristi, noi siamo saliti con una percentuale altissima e fatta di persone oneste. Vabbè, fin qua l'autodifesa. Certo, diciamo, è una questione d'ufficio che tiene tutti molto, molto, molto attenti. Un po' credo per la vecchia questione, perché il Movimento 5 Stelle, che appunto è la bandiera della legalità, e si ha come sempre un po' la sensazione che forse veramente appena si entra in politica ci si sporca le mani, inevitabilmente. A me ha colpito in particolare in questa vicenda la vicenda legata alla squadra di calcio e allo stadio della città di Quarto, perché il comune di Quarto, che è stato commissariato, era stato sciolto proprio per infiltrazioni camorristiche due volte, se non ricordo male, dopo l'ultima volta nel 2012 la squadra di calcio era stata c'era stata una convenzione con una società sportiva, Nuova Quarto Calcio per la Legalità, che era diventata in quegli anni un simbolo proprio della battaglia dei cittadini contro la camorra per la rinascita del territorio nel segno della legalità. Dalle intercettazioni emergono pressioni affinché appunto invece la squadra venisse affidata al il campo di calcio venisse affidato proprio a questo imprenditore cesarano in odore di clan camorristici, a questa associazione Quarto GAD. Esatto. Fatto sta che il comune, il sindaco Capuozzo, decide di interrompere il rapporto con la Nuova Quarto Calcio per la Legalità e di affidarla a quell'altra associazione, Quarto GRAD, un'associazione invece più discussa, diciamo. Ci chiediamo perché, ci chiediamo tutti perché, quindi aspettiamo delle risposte. Sentiamo come ha risposto, sempre a Effetto Notte, il sindaco 5 Stelle Capuozzo. La gestione dello stadio è stata il primo motivo di scontro da parte mia nei confronti di Giovanni De Robbio, proprio perché lui aveva una visione che in quel momento per me era una visione politica, quindi erano pressioni politiche, dovuta al fatto che secondo lui la gestione da parte dei privati sarebbe stata più semplice del comune. Quindi ci siamo mossi nella gestione dello stadio come comune, infatti adesso lo stadio è comunale, non viene gestito da nessun privato. Lo scontro è stato così forte per quelle pressioni politiche che Giovanni De Robbio poi non è stato più presidente del Consiglio e si è allontanato man mano sempre di più dal programma, dalle linee, fino allo scontro sempre più forte, fino all'espulsione. Lavorerò E diamo il buongiorno a voi la domenica al sindaco di Napoli, De Magistris. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno sindaco. Salve. Allora, con lei per cominciare, volevo cominciare commentando la notizia per cui l'abbiamo chiamato, che in realtà è una buona notizia, perché lei ha fatto una specie di bando a Napoli per dare delle borse di studio, chiamiamole così, dei mini ingaggi ai giovani napoletani tra 18 e 29 anni, 247 ragazzi, per lavorare nella cultura, musei, chiese, anche nelle stazioni delle metropolitane. Napoli museo aperto, questa è la bella iniziativa. Però De Magistris, abbiamo appena sentito la vicenda di Quarto, che è lì dalle sue parti, e non possiamo esimerci da chiedere anche a lei, che ha già commentato, che ne pensa? Tanto... Allora, cominciamo da Quarto. Cominciamo da Quarto. Cominciamo dalla brutta notizia e prendiamo la bella. Tanto lei ha detto che per le prossime elezioni vorrebbe stringere un rapporto col Movimento 5 Stelle, quindi diciamo lei è di quel mondo lì. Contenuti, su tante battaglie, su tante lotte con l'elettorato, con i militanti, ci troviamo, le posizioni sono molto simili e così è. Quello che sta accadendo a Quarto dimostra una cosa, che quando governi è tutto più difficile, quando governi devi avere schiena dritta, spalle larghe, esperienza, devi conoscere bene il territorio. Io per alcuni anni da magistrato, quando stavo alla Procura di Napoli, mi sono occupato di quelle zone Quarto, Marano, dove il clan Polverino Nuvoletta sono non forti, fortissimi, e hanno una capacità di infiltrazione nell'economia e nella politica altissima. È brutto vedere che la prima esperienza di governo dei 5 Stelle nell'area metropolitana di Napoli sia subito caratterizzata da infiltrazioni così gravi. Perché questo è il primo comune, mi scusi, De Magistris, amministrato dal Movimento 5 Stelle in Campania. Sì. Assolutamente sì, e ovviamente le indagini sono in corso, però effettivamente quello che complessivamente emerge, anche la reazione un po' scomposta pure di alcuni leader del movimento, non è incoraggiante e dimostra pure che loro sbagliano quando si ergono a paladini esclusivi della moralità pubblica, perché questo non è un marchio che appartiene a qualcuno, questo è un marchio che appartiene alla storia delle persone. Ognuno con la propria storia si può dire se ha praticato la questione morale o non l'ha fatto. Io ho solidarietà per chi amministra, perché è molto difficile, è difficile farlo a Quarto come altrove, però sinora si sono difesi anche male, devo essere sincero, perché non hanno fatto chiarezza, lo stesso sindaco secondo me non è stato complessivamente convincente, però io credo che vanno aiutati, perché ci hanno messo la faccia, sono giovani, sono tante persone che in questi anni stanno cercando di cambiare insieme ad altri la politica del nostro paese, quindi non mi unisco al coro come fa il PD per esempio, che non ha nessun titolo per parlare in quelle zone di moralità, perché ha governato per anni e anni in quelle zone e certo non è stato un paladino della moralità pubblica, però anche loro secondo me, ripeto e chiudo, hanno secondo me sbagliato quando in qualche modo si sono voluti ergere a difensori esclusivi della legalità nel nostro paese. Quando dice che la prova del governo è quella più difficile, ci vogliono spalle larghe, eccetera eccetera, sembra quasi che ci sia un po' un rimpianto, era meglio fare il magistrato? Ma io quello volevo fare, io avevo coronato un sogno della mia vita, ma il nostro non è un paese normale, perché io in realtà sono stato fermato proprio perché a un certo punto in alcune inchieste mi sono trovato a indagare sulle infiltrazioni dell'andrangheta e di fattori corruttivi molto gravi nello Stato. Quindi io non volevo fare il sindaco, non volevo assolutamente lasciare la magistratura, è una storia ormai nota. Però adesso si ricandida De Magistris, già da che non lo voleva fare ha detto che si ricandida. Io ho fatto una cosa che nessun magistrato fa quando poi decide di non fare il magistrato, mi sono dimesso. Mi sono dimesso dalla magistratura rinunciando a una pensione anche importante che i magistrati hanno a fine carriera e adesso sono, come dire, un uomo che crede ancora nelle istituzioni da un'altra parte. Ho fatto il sindaco con passione, ormai ho quasi finito il mio mandato, è stato molto duro ma molto appassionante perché amo molto la mia città e adesso, come è giusto che sia, mi sottopongo al giudizio dei miei elettori e valuteranno loro se devo continuare a fare il sindaco per altri 5 anni o devo inventarmi qualche altro mestiere a 50 anni. il terzo a questo punto. Il terzo mestiere, terza vita di Idea Magistri. È bello anche cambiare. Io giusto. Sono uno che penso che dalle cose brutte nascono anche le cose belle. Allora, giusto. Facciamo una piccola pausa per le informazioni sul traffico. Dei Magistri, se resti con noi veramente un minuto, sì. E poi torniamo per commentare questa notizia. Napoli, museo aperto, cerchiamo di vedere quali opportunità dà ai giovani napoletani nel mondo della cultura. Un'iniziativa, però lo dico subito, che negli ultimi, diciamo, mesi di mandato sembra quasi, Di Magistris, un po' un tentativo, no? Una mancia elettorale. Io lo dico subito, poi lei dirà che non è così, ci spiegherà perché. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Lavorerò per poi godere. Goder di chi? Goder di cosa? E ti amerò sopra ogni cosa. Allora, eccoci qua di nuovo in diretta con il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, per parlare di questo progetto. Napoli Museo Aperto, appena lanciato, appena presentato, 247 giovani che lavoreranno in 30 siti culturali. Ci dica tutto. Innanzitutto parto dalla cosa che avete detto prima del traffico. Sì. Non è affatto un'operazione elettorale, sarebbe, diciamo, offensivo non solo per noi ma anche per i giovani. Spiegamola bene. Sì. Nasce un paio d'anni fa. No, scusi, aggiungo solo quello, perché noi siamo il programma delle buone pratiche, l'abbiamo chiamata per questo e ci crediamo. Però siccome chi fa il nostro lavoro deve sempre essere un po' complottista, no? Per noi è una buona notizia in assoluto, siccome è un po' per prevenire le critiche, perché uno dice vabbè, però prima delle elezioni. Intanto io sono contento che 247 giovani abbiano del lavoro e lavorino nella cultura. Io trovo molto giusto che si facciano le domande critiche e pungenti, perché è giusto che uno debba spiegare con trasparenza, quindi non era assolutamente, anzi sono contento di questa domanda posta in questo modo. È un'idea che nasce, per la verità, nemmeno sulla cultura inizialmente, nasce un paio d'anni fa su una istanza molto forte che c'è nella mia città, ma non solo, cioè quello di aree occupate per esempio da parcheggiatori abusivi. Allora, per cercare di affrontare questo tema, che non riguarda tanto il sindaco perché è un tema di forze dell'ordine, eccetera, però siccome è un tema sentito, cioè, ma come si può fare? Allora decidemmo di provare a costruire varie aree della città in cui toglierle all'illegalità e affidarle ad associazioni, comitati, gruppi di giovani che potessero curare quelle aree, fare decoro, fare anche iniziative culturali. Da quello è nato un progetto più articolato e quindi riguarda aree da sottrarre al degrado, musei, chiese, monumenti e poi parchi e giardini. Si è cominciato con il progetto sulla cultura, quindi 247 giovani, arriveremo a 1000, che ci consentono di fare una cosa rivoluzionaria, cioè di aprire chiese che nella nostra città erano chiuse perché non c'era personale, aprire anche di domenica, mantenere meglio parchi e giardini. Per i primi 6 mesi con questo progetto, con questo bando, ci sarà una retribuzione, ovviamente che è una retribuzione non particolarmente alta, e poi la nostra idea a fine 500 progetto, euro netti, esatto, è così? 500 euro netti, a fine progetto invece, questa è la novità che può creare un lavoro stabile, perché parliamo di cultura, parliamo di ambiente, parliamo di decoro, fare dei bandi ad evidenza pubblica in cui i giovani, motivati da questa esperienza, si riuniscono in associazioni, poi vedremo in cooperative qual è la formula giuridica migliore per provare, diciamo, di entrare stabilmente in un lavoro che per noi è strategico, perché Napoli si sta rilanciando soprattutto attraverso il turismo, la cultura e tutto ciò che ne deriva dal turismo e la cultura, commercio, artigianato, creatività e impresa. Lei ha detto più volte, mi scusi se la interrompo, questa cosa del turismo, della rinascita, della cultura, a chi pensa che queste siano, diciamo, questioni un po' secondarie, la cultura, con la cultura non si mangia, eccetera, eccetera. Lei cosa risponde? Cioè, c'è stato un aumento del turismo in questi ultimi anni a Napoli, ha portato un indotto, ci sono delle cifre, qual è, diciamo, da questo punto di vista, la forza di questo progetto anche economico per la città di Napoli, secondo lei? È straordinario, con la cultura e con il turismo si mangia altro che, perché non è solo un bel vedere, cioè, Napoli in questi 2-3 anni è la città d'Italia che maggiormente è cresciuta in termini turistici, queste sono persone che vengono, consumano, stanno in albergo, vanno nei negozi, comprano, vanno nei ristoranti, vedono la nostra città e producono capacità di attrazione di fare investimenti, quindi noi abbiamo avuto la dimostrazione che in questo modo non solo si muove l'economia, si muove il commercio, tutto il settore enogastronomico, ma c'è il lavoro, perché basta entrare, quindi fa una cosa empirica, in una trattoria, e che ne so, nell'ultimo anno si sono raddoppiati, triplicati, quadruplicati il numero delle persone che lavorano e che molto spesso sono ragazzi delle periferie, ragazzi di comuni limitrofi, segno che quindi è anche un segnale forte per un'alternativa contro il degrado, la devianza e il crimine. Poi chiaramente Napoli non sì, è questo, mi fa venire in mente, scusi Magistris, quando dice le trattorie sono piene, mi viene in mente, non può non venire in mente il Berlusconi che diceva i ristoranti sono pieni, non c'è no, la crisi. No, ma qua non, io ho fatto il ristorante per fare un esempio, ma se va nella San Gregorio Armeno che vendono i presepi, se va dove vendono i prodotti dell'artigianato, del commercio, in qualsiasi luogo commerciale della nostra città, dagli alberghi, sono pieni. Quindi questo ha prodotto economia, ha prodotto sviluppo, sta producendo lavoro. Poi Napoli chiaramente non è una città solo turistico-culturale. Napoli c'è l'impresa, ci sono le industrie, è una città, come dire, che si mostra come capitale del Mediterraneo. Quello che però è importante è che noi abbiamo proprio investito su una programmazione culturale, cioè questo non è frutto del caso. Sì. Senta, scusi, a proposito di investimenti, è vero che questo progetto Napoli Museo Aperto è finanziato interamente dal Fondo Garanzia Giovani, cioè sono soldi dell'Europa e del governo, del Ministero delle Politiche Sociali, cioè siete riusciti, perché anche questa dal mio punto di vista sarebbe una buona notizia, perché spesso questi fondi europei, si sa che non si ci sono, ma non si riescono a spendere, non si sa poi perché. In questo caso siete riusciti a spenderli, questo? Sì, esattamente proprio questo. Siccome noi in questi 4 anni, sia perché io ho ereditato un comune in dissesto finanziario, sia per i tagli del governo, noi gli unici fondi che abbiamo avuto in questi quasi 5 anni di governo locale sono i fondi europei, che devo dire con soddisfazione, infatti la ringrazio per averlo sottolineato, non abbiamo restituito nemmeno un centesimo di euro, come invece spesso capitava, soprattutto al sud Italia, venivano restituiti solo dei fondi europei o alcune volte venivano anche sperperati. Quindi è così, si tratta di fondi europei che noi ne abbiamo colto nella loro potenzialità. Beh, questa è una buona notizia nella buona notizia, di sicuro, sì. Perché tutte le volte si dice sempre ci sono un sacco di soldi europei ma noi non riusciamo a prenderli, quindi esatto. Io sono ben contento che perlomeno Napoli sia riuscito a prenderli. Diciamo, non abbiamo la controprova, io non ho potuto verificare, quindi poi qualcuno ascoltatore dirà state dando ragione al sindaco senza contraddittorio. Siamo una casa di vetro, potete venire a verificare qualsiasi cosa. Diciamo che qualora quello che dice De Magistris fosse vero, sarebbe una buona notizia, perché appunto se lo sappiamo, i fondi ci sono, poi però per vari motivi spesso non vengono spesi. Tra l'altro questa settimana mi voglio agganciare a una notizia mainstream, perché laureati in Italia solo la metà trova lavoro dopo 3 anni, peggio di noi solo la Grecia, sono i dati Eurostat pubblicati proprio questa settimana. Allora noi ci siamo agganciati, certo questo non è un lavoro perché dura solo 6 mesi, sono 500 euro netti al mese. Lei non, diciamo, questi 500 euro che sono pochi per uno stipendio, perché qualcuno potrebbe dire sì, ho capito, però vado a lavorare per uno stipendio che è meno della metà di uno stipendio normale, come va inquadrata questa cosa qua? Ma infatti questo non è un lavoro, questo è un progetto che dà un segnale forte, cioè che si può investire nella cultura, che la cultura è un volano anche per muovere l'economia, è una cosa importante perché aiutano a contribuire al rilancio della città. E poi la vera novità, perché se finisse solo così il progetto di 6 mesi con una cosa bella, una buona notizia, 500 euro, secondo me non avremmo raggiunto un grandissimo risultato. La novità che ci ha messo il Comune di Napoli dopo la fine del finanziamento europeo è quello di provare a rendere stabile l'iniziativa e quindi dimostrare ancora di più che con la cultura non solo si mangia, diciamo, provvisoriamente, ma si può creare anche lavoro. Questa è un po' la novità. Se noi vediamo le guide turistiche, non è questo il caso di questo progetto, che in questi mesi a Napoli si stanno consolidando, se vediamo tanti mestieri anche imprenditoriali che cominciano a ruotare sempre di più intorno al turismo. A Napoli negli ultimi tempi c'è stata un'esplosione di nascite di bed and breakfast, di case vacanza, di tanti. Questo significa che è un'impresa, l'indotto, i consumi della farina, i consumi di alcuni prodotti. Addirittura in questi giorni a Napoli, l'ultimo mese, in alcuni locali finiva la materia prima, talmente era l'ondata di gente che è venuta nella nostra città. Quindi questo per una città che io ho ereditato, come dire, in dissesto finanziario, con l'emergenza rifiuti, è per noi una bella notizia. Poi c'è tutto da lavorare ancora, ovviamente. Va bene. Bene, io la devo ringraziare, ringraziare sindaco ancora per il Pride di quest'anno, perché ero uno dei testimonial del Pride e ho fatto tutto il Pride al suo fianco e al fianco di Maria Nazionale, ed è stato un Pride bellissimo, e ricordo, il sindaco ha fatto tutto il Pride dall'inizio alla fine e per noi è stato molto importante. Grazie, buona domenica. Buona grazie. Domenica. Grazie domenica mille, buona domenica. Maria Teresa D'Alecco in 30 secondi. Sì. Risposta al personaggio della settimana? È l'imprenditore varesino, se non sbaglio, che ha lasciato parte dell'eredità ai dipendenti. Nome? Il nome dell'imprenditore? Macchi? Sbaglio. Non era lui. Non era lui. Non era grazie. Lui, non era lui. Grazie, grazie mille per aver chiamato. È un altro il personaggio che ha realizzato una impresa e che andiamo cercando. 800 24 00 24. Dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. Eccoci qua, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buona domenica a tutti. Con la sigla di Happy Days riprendiamo a ripercorrere alcune delle notizie principali di questa settimana, sempre a caccia di buone pratiche e di buone notizie, però dobbiamo commentare anche l'ultima ascoltatrice che aveva chiamato per il personaggio della settimana, perché era una bella storia. È una notizia bellissima quella di dirla, sì. Piero Macchi, non avevamo il tempo, ci avevamo anche pensato, per noi era un po' il nostro personaggio della settimana, a un certo punto ci siamo detti forse è troppo facile, è troppo perfetta questa storia. Piero Macchi è un industriale della zona di Varese che a giugno è morto a 87 anni e ha lasciato 1,5 milioni di euro ai propri dipendenti, facendo proprio una busta per ognuno, non è che li ha lasciati tutti insieme, quindi a seconda di da quanto tempo lavoravano dentro la sua azienda, chi ha preso 2.000 euro, chi ha preso 10.000 euro, chi ha preso anche di più di questi soldi. E è una storia stupenda nel momento che muore. E lui è un uomo tra l'altro incredibile, perché è un uomo che anche è stato malato a lungo, sì. E anche durante la sua malattia, tipo l'ultima volta che è stato ricoverato o la penultima, è andato in ospedale, ha visto che l'ambulanza non era in buone condizioni, ha detto se ne vengo fuori anche questa volta vi compro l'ambulanza nuova, ne è venuto fuori e ha comprato, la prima cosa che ha fatto appena uscito dall'ospedale è che ha comprato l'ambulanza nuova per l'ospedale, quindi un grandissimo personaggio. Non era lui quello che avevamo scelto noi, però è un altro il personaggio che ha realizzato una impresa che andiamo cercando. 800 24 00 24. Franco da Trento, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, voi avete premesso che ha compiuto un'impresa. Sì. Questo industriale ovviamente è un grande personaggio, però non ha fatto un'impresa, no? E chi è invece secondo lei il personaggio? È il nostro notaio, dunque, lei. Conto mio, non è una grande cosa, ma sì. Comunque è lo sciatore altoatesino Christian Innerhofer. Che nella discesa libera recente ha inforcato una porta e è arrivato al traguardo con la porta attaccata al casco e a 140 all'ora è arrivato nonostante tutto qua. Dimostrando una freddezza impressionante e salvandosi anche le penne. E se non ricordo male, e poi ha anche postato la foto del livido sul braccio. Sì, era ieri sera da Fazio presente, sì, certo. Il quale ha fatto vedere anche brevemente il livido da brivido. Però non era lui il personaggio a cui avevamo pensato. Però la ringraziamo moltissimo. Grazie. E anche per l'attenzione, giustamente diceva, l'indizio era molto preciso, era su impresa, quindi sì, appunto mi avete un po' sviato su questa. Grazie, la ringraziamo Franco. Moltissimo. Grazie. Io vi faccio tanti auguri perché vi seguo sempre. Bene, grazie mille. Continui così, Franco. Grazie. Buona domenica. Allora, 800 24 00 24, un personaggio che ha realizzato una impresa. Tra poco magari diamo anche un altro indizio. Certo, certo. Aggiungo solamente un'altra cosa. Prima ho ringraziato De Magistris per essere stato presente al Gay Pride nel 2015 e ho fatto questa precisazione perché essendo io stato testimonial anche del Gay Pride di Benevento, invece a Benevento il sindaco che aveva detto che sarebbe venuto in piazza non si è presentato e non rispondeva nemmeno al telefono, quindi diciamo De Magistris invece è stato un sindaco di parola. Allora, riprendiamo con le notizie. Questa settimana sul fronte la grande questione dell'immigrazione, dei migranti, sapete c'è stato un po' di movimento nel nord Europa, la Danimarca e la Svezia hanno sospeso sostanzialmente Schengen alla loro frontiera perché c'è una grossa pressione verso la Svezia, soprattutto ci sono state tantissime domande di richiesta d'asilo l'anno scorso, per questo motivo la Svezia chiude, di conseguenza la Danimarca chiude verso la Germania. Sentiamo invece il nostro ministro dell'interno Alfano che dice: noi non sospendiamo Schengen anche se stiamo presidiando la frontiera a nord-est dell'Italia. Noi non abbiamo intenzione di sospendere Schengen, non è vera questa cosa che è stata detta. Quello che abbiamo fatto, ma non è che lo faremo, lo abbiamo già fatto da settimane, quello di rafforzare i controlli in funzione antiterrorismo. E dopo i fatti di Colonia, sicuramente con un legame rispetto a quello che è accaduto la notte di San Silvestro e le molestie nei confronti di alcune centinaia di donne, le denunce che ci sono state, eccetera, sicuramente questo ha influito nel fatto che il governo abbia deciso di rimandare una controversa questione, quella dell'abolizione del reato di clandestinità. Chiariamo subito, il procuratore nazionale antimafia Roberti ha detto recentemente in una audizione che questo reato di clandestinità, che sostanzialmente è una sanzione amministrativa di alcune migliaia di euro nei confronti di chi si ritrova illegalmente nel territorio italiano, non è un deterrente, anzi addirittura è un ostacolo spesso nelle indagini che riguardano anche i trafficanti di uomini e l'immigrazione clandestina. Per questa ragione il governo ha deciso di cambiare questa norma, però la questione è stata sospesa. Appunto, in retroscena dicono anche perché, ma lo ha detto anche il ministro Alfano, si rischia di dare un messaggio, una sorta di liberi tutti in questo momento, proprio con i fatti di Colonia appena accaduti alle spalle. La Lega minaccia le barricate. Il presidente della regione Lombardia, Formigoni, oggi Maroni, dice: prepariamoci all'invasione se aboliscono il reato di clandestinità. Sentiamo invece Salvini. Se il governo andrà avanti e se il Parlamento ratificherà questa scelta suicida e anti-italiana del governo, noi penso che in non molto tempo 500.000 firme per cancellare questo regalo ai delinquenti le raccoglieremo. Diamo un altro indizio. Sì. Perché hai paura che non ce la facciano i nostri ascoltatori. L'altro indizio del personaggio della settimana che stiamo cercando è che il nostro personaggio è una donna. Va bene, ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Yeah! E allora, un'altra notizia di questa settimana. Questa è una buona pratica, una buona notizia che arriva dalla Francia contro lo spreco alimentare. Adesso nei ristoranti, ma anche nei supermercati, la doggy bag, cioè la, il sacchettino, la bustina, la scatola per il cane, scatola, esatto, dove metti gli avanzi del cibo che hai mangiato, che ti è avanzato, che non hai mangiato al ristorante, diventa obbligatoria, cioè ce la devono avere tutti. Come sempre i francesi, quando decidono di fare una cosa, paf, entrano a gamba tesa. Noi ne parliamo con Lisa Casali. Buongiorno, buona domenica Lisa. Ciao, buongiorno, buona domenica anche a voi. Ben ritrovata. Lisa. Lei da sempre scrive sul suo blog ecocucina.org ricette antispreco, cioè recuperando proprio l'impossibile. Chi la conosce sa che c'ha sempre delle cose straordinarie. Chi la conosce sa anche che cucina con, mettendo i cibi nella lavapiatti. Stoviglie, sì, fa di tutto, fa di tutto. Conduce anche dei programmi in televisione. Lisa, però questa quando la Francia fa queste leggi così molto forti, c'è sempre qualcuno che dice sì, però creare degli obblighi non serve, ci vuole più un atteggiamento culturale, eccetera, eccetera. Tu come, che ne pensi? Pensi che una legge come questa sia in effetti utile a combattere lo spreco alimentare? Ma intanto mi piace molto che appunto a livello poi governativo ci sia un paese come la Francia che fa un po' anche da apripista e sollevi comunque una questione, un problema che in altri paesi insomma un po' viene preso sotto gamba. E mi piace molto quella frase, secondo le Nazioni Unite, dice che se lo spreco fosse uno Stato sarebbe al terzo posto globale per la produzione di gas serra. E quindi è sicuramente terzo posto. Un grosso problema da non sottovalutare. Io sono anni e anni che rompo le scatole a tutta la ristorazione italiana per cercare di capire effettivamente quanto si spreca, dov'è il problema, e mi sono fatta la mia idea. E credo che il discorso della doggy bag sia una piccola iniziativa, ma tutto sommato non porterà grandi risultati. Intanto il fatto che tu costringa un ristoratore ad avercela e offrirla ai propri clienti, e il cliente poi, metti caso che la chiede, se la porta a casa, comunque non è detto che poi alla fine vada a consumarlo questo cibo avanzato, e quindi rischi soltanto... Anche questo è vero. Questo è verissimo, però non è anche un po' simbolico? E di nuovo, che uno, se va al ristorante, ha la possibilità che si avanza un po' di fagiolini e mezza bistecca, può portarsela a casa, entra il concetto per cui il cibo avanzato non si butta. Sì, infatti diciamo, bisogna comunque partire da una sensibilizzazione di tutta la filiera, il fatto che loro questa iniziativa non la facciano solo con i grandi ristoranti, ma ad esempio con i supermercati. È molto bello il fatto dei supermercati che sono costretti a regalare il cibo in scadenza alle associazioni caritative. Sì. Io conosco ad esempio bene l'attività di Banco Alimentare, che insomma non è così facile poi farsi regalare il cibo. Gli indigenti sono sempre di più, e sono stata anche con loro e ho visto che questo cibo scarseggia. Se in Italia ci fosse questo obbligo per i supermercati, sarebbe veramente una manna in un momento come questo. Il discorso dei ristoranti, invece, credo che ci sarebbero altre cose che potrebbero aiutare qui in Italia. Ad esempio, il fatto che io ho uno stomaco magari diverso da quello di Carlo o dal tuo. Cioè, magari io quando vado al ristorante ho un po' meno fame, oppure magari ne ho il triplo. E la porzione è la stessa quando tu ordini. Quindi il fatto di poter scegliere almeno tra due porzioni, diciamo una piccola, giusto, e una la normale, mezza porzione, giusto, che era un grande classico, tra l'altro in Italia, sì, c'era, un tempo c'era. Dopo la guerra c'è un famoso ristorante anche a Roma che si chiamava Mezza Porzione, anche in diversi film. Hai ragionissimo. Io credo ad esempio questa cosa qui sarebbe più efficace del fatto che tu ti sei preso la porzione normale, sì, e poi te ne devi portare a casa la metà perché non avevi abbastanza fame. Confermo, Lisa, perché tante volte capita di andare al, giusto, ristorante. Io mi capita spesso di fare la parte di quello che lo finisci, finiscilo pure perché a me non va più. E quindi succede che uno dei due mangia il doppio per non sprecare. Ed è, infatti, ed è assurdo, sbagliato. I problemi di obesità che abbiamo in Italia, secondo me, sarebbe più utile che le persone scegliessero in base... non solo alla fame, ma cioè vuol dire che se vado avanti così sono sulla strada dell'obesità. No, no. Condivido molto, Lisa, perché tra l'altro questa notizia che abbiamo dato di quello che accade in Francia, ovvero della doggy bag, è anche per raccontare che in Italia questa cosa non funziona tanto, soprattutto perché le persone si vergognano. Quindi è molto giusto la cosa che tu dici, nel senso che magari uno ha ordinato roba in più, però si vergogna di chiedere la scatola e per portarsela a casa. Invece secondo me ordinare la mezza porzione è quasi figo. E invece ovvio, ordinare solo quello che vuoi mangiare è giusto. È ovvio che questo ai ristoranti interessa meno, Sì, risparmia, questo forse al ristoratore interessa meno, ecco, se posso dire. Ecco, ma perché, Lisa, secondo te questa cosa della mezza porzione non decola, non si fa, visto che tu stessa l'hai sollecitato, sarebbe una cosa utile? Credo per una questione di, immagino, di comodità, di organizzazione, dover gestire magari porzione intera, porzione media, magari è un po' di lavoro in più, o comunque è sicuramente un po' di guadagni in meno per la ristorazione. Questi ultimi anni sono per la crisi, tra l'altro molti ristoranti hanno un po' fatto scendere la qualità dei prodotti per poter offrire dei prezzi più competitivi ai propri clienti. Forse, secondo me, giusto. Andare a intervenire su questa cosa qua. Poi un'altra cosa, secondo me, molto importante è il numero di portate del menù. Adesso, per esempio, per fortuna, non vanno più di moda quei menù con 28 pagine dove dentro praticamente trovi l'enciclopedia italiana della cucina. Non so se vi capita mai andare... Sì, è il mio dramma, io non so scegliere, quindi di solito dico, mi scusi, sono a pagina 18, se può tornare fra mezz'ora, perché proprio non saprei. Io preferisco di gran lunga un ristorante che ha fatto la spesa di prodotti freschi, che non usa quei semi lavorati che purtroppo vanno tanto di moda adesso nella ristorazione, per risparmiare i tempi, e che mi fa tre primi, tre secondi, un dolce, due antipasti. Ma perché, Lisa, vuoi dire che se un ristorante ha una lista, ha un menù molto lungo, una lista dei piatti, delle pietanze molto lunga, questo si può accompagnare in genere a un maggiore rischio di spreco e anche una minor qualità del cibo? Perché? Assolutamente sì, devi avere delle scorte altissime. Immagina se tu fai dal tagliolino al salmone l'astice con il gnocchetto, piuttosto che il porcino fresco, magari tutto l'anno. Abbiamo fame, attenzione. Tu devi avere delle scorte immense. Invece, se tu ti concentri, prodotti di stagione, buonissimi, di qualità, che hai preso al mercato, e con quei prodotti lì, buonissimi, ti fai tre primi, di sicuro offri un prodotto di maggiore qualità, ma soprattutto non sei costretto ad avere queste scorte immense di prodotti, perché alla fine la maggior parte dello spreco della ristorazione non è tanto quello che rimane nel piatto del cliente, che comunque non tutti lasciamo le cose nel piatto, ma è tanto un discorso di gestione, ovviamente, delle scorte. Quello che rimane in frigorifero, certo. Certo, giustissimo. È quello il problema fondamentale. No, io condivido molto questa cosa che dici. Mi chiedevo però come si coniuga questa tua proposta di avere un menù molto più ristretto con in realtà un sacco di esigenze, del tipo di avere anche un piatto vegano, anche un piatto per celiaci, anche un piatto che vada bene per i bambini. E allora uno pian piano deve dire, qua devi mettere anche il veggie, devi mettere anche... O sbaglio? Ma guarda, io ho visto, adesso questi poi 6 mesi, Carlo lo sa bene, no, ho parlato tanto con l'alta cucina, ho incontrato 360 chef da tutto il mondo e quindi mi sono confrontata parecchio su questi temi. Diciamo che c'è anche una tendenza, soprattutto a ristoranti molto in alto, però immaginati che quello che fa un ristorante stellato è come un grande stilista che detta le tendenze per tutto il mercato. Ad esempio c'è la tendenza al menù fisso. Se tu vuoi venire a mangiare da me, mangi quello che a me mi gira questa mattina di oggi di darti da mangiare. Certo. E ovviamente se tu vieni a mangiare, vai a mangiare da un ristorante, insomma, per non dire stellato, comunque un ristorante di un certo livello, e lui ti propone il meglio che lui ha trovato al mercato quel giorno, secondo me mangi molto meglio che ordinare a pagina 28. Condivido. Un piatto anonimo che sta lì che ti aspetta da mesi. E soprattutto io adoro quei ristoranti dove mi siedo e fanno loro. Sì. E io non devo nemmeno scegliere. È bello essere consigliati, farsi consigliare. Senti, Lisa, però torniamo alla doggy bag. Almeno una ricettina ce la puoi dare? Cioè, per esempio, mettiamo che io mi faccio convincere, mi avanza della carne, no? Il classico, avanza la carne. Cosa ci si fa con la carne? Cosa ci si può fare con della carne avanzata che si esce, ti compri un cane per rimangiarla? Beh, per fortuna gli avanzi di carne sono uno di quei prodotti, quindi, che fanno più parte anche della cultura italiana, quindi sono di ricette regionali, quindi dai mondeghili milanesi oppure anche a cose un pochino più creative, se volete, ad esempio i Glescorelli, quando è venuto ospite da noi ha preparato questo piatto di origine, diciamo, di ispirazione asiatica, perché ha usato tutti gli avanzi di carne per farli in agrodolce. Quindi, ad esempio, voi prendete la vostra avanzo di pollo, di mandorlo, tagliate a cubetti e poi si fa praticamente rosolare in padella con polpa di pomodoro, zucchero, sale, salsa di soia, e viene un po' caramellato. E sicuramente se cambia faccia completamente, da un avanzo rinasce perché per chi non è di Milano, ricordo che i mondeghili sono delle polpettine di carne buonissime, è vero. Buonissime. Non so come sono fatte, però le mangio sempre. Posso aggiungere un'ultima cosa? Certo. Sul tema dei ristoranti? Beh, sì. Credo che sarebbe molto efficace anche la prenotazione obbligatoria, sempre per un discorso di permettere ai ristoranti di programmare bene l'attività. E infine gli all you can eat, che vanno sempre più di moda, e sì, soprattutto con la crisi sono aumentati. Ho visto che qua a Milano, ad esempio, molti ti multano se lasci le cose nel piatto. Sì. E penso che sarebbe sicuramente una buona iniziativa. E infine, provocazione ai matrimoni, far pagare una multa a chi lascia le cose nel piatto, perché i buffet quelle sono occasioni, guarda, si spreca tantissimo. Però stai dando un'idea bellissima, perché io voglio fare il vigile ai matrimoni che controlla se qualcuno avanza qualcosa vengo nel piatto. Vengo con te, con tutto di fischietto. Esatto, è il lavoro più bello del mondo, veramente. Facciamo i vigili al matrimonio. Esatto. Va bene, no, grazie. E sulla prenotazione obbligatoria, sì, ci faccio un pensiero. Non sono così convinto, perché comunque poi a volte capita che uno invece è per strada e deve andare a mangiare. Non è che può dire, dovevamo prenotare 2 settimane prima. È difficile la prenotazione obbligatoria. Perché devi prenotare 2 settimane prima, no? Quanto tempo prima può essere utile per un ristorante e poi per programmare meglio, Lisa? Almeno il giorno prima, perché i ristoranti che lavorano meglio fanno la spesa la mattina. Ma allora ha ragione Carlo, come facciamo? Cioè, io il giorno prima devo già sapere che domani sera andrò a cena, è difficile, questo è molto difficile, almeno per me. Beh, però se già questa cosa che adesso è molto basso, il tasso, sì, di prenotazione, se almeno già la facessimo crescere, aiuterebbe un pochino, vero, di più la ristorazione. Ascolta, propongo un compromesso, se non prenoti mangi quello che c'è. Sono d'accordo, mi piace. Va bene, grazie. Grazie mille, Lisa. Grazie, ciao, a voi, buona giornata. Ciao. Lisa Casale, l'ultimo suo libro, se vi siete fatti convinti del suo stile. Tutto fa brodo. 800 24 00 24. Invece riprendiamo, prima di andare in pausa, con gli ascoltatori. Abbiamo Biagio che chiama da Napoli. Buongiorno, Biagio. Buongiorno, un ascoltatore, sì, 12 ore su 24, complimenti per la trasmissione, il personaggio è il pugile De Caloris che ha portato, diciamo, il titolo mondiale in Italia dopo tantissimi anni. Intanto grazie mille per ascoltarci e siamo felici. Il pugile De Carolis ha portato il mondiale che torna in Italia, la notizia è una bellissima notizia, ma non è il personaggio che noi avevamo scelto. Grazie Biagio, anche perché abbiamo aggiunto un indizio che è una donna e quindi era un po' difficile che fosse De Carolis, rimasto indietro di un indizio. Ma anch'io non ci avevo pensato a questa cosa. Invece all'inizio, quando ho sentito la voce da Napoli, ho detto, ma è De Magistris che sta camuffando la voce e vuole vincere il premio. Vuole andare alla mostra di Barbie. Bruno da Riccione, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Devo dire il personaggio della, sì? della settimana. Chi, sì, chi è? Chi è? Fabiola Zanotti, che è diventata il presidente del CERN. Sì, in questi giorni proprio. Si è insediata in questi giorni, insediata, perché quando la diventò la sentimmo prima, anche, sì, e la intervistammo. Che ha partecipato praticamente alla scoperta del bosone di Higgs. Bruno, la notizia è stupenda. La notizia è stupenda, stupenda. Però mi dispiace. Ne parlavo che non fosse lei, perché è troppo presto. Per noi è quasi tardi, perché noi ne parlammo quando venne nominata. Adesso, se non sbaglio, si è insediata con l'inizio dell'anno, siamo felicissimi, ma non è il personaggio che avevamo scelto, sì, oggi. No, ma però, forse è troppo presto. E poi Bruno è sempre bello raccontarla questa storia. Intendeva forse troppo presto nel programma, perché in genere si indovina un po' più avanti. In effetti non avete ancora indovinato. Allora, ha compiuto un'impresa, è una donna. Donna, sono i due indizi. Facciamo un'altra telefonata. Paola, dalla provincia di Modena. Pronto, sì, sono io. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buona domenica. Grazie altrettanto. Dunque, io pensavo, siccome avete detto che è una donna, yes, io ho pensato da mamma che fosse quella mamma che aveva partorito 2 gemelli. Uno un minuto prima di mezzanotte e l'altro un minuto dopo, quindi essendo 2 gemelli, sì, però uno è nato nel 2015 e l'altro nel 2016. Nel 2016. È una storia bellissima che mi ha divertito molto. Mi sono sempre chiesto se lei in qualche modo avesse fatto di proposito di cercare di avere il parto lì. Comunque è una notizia stupenda, o meglio molto divertente, che nel senso conoscevo, che ci sono 2 gemelli. che... ho pensato una cosa così banale, sì, insomma, banale, però non banale, perché cioè non succede sempre, ecco. No, non succede quasi mai, no, anche assolutamente, perché se la racconteranno per tutta la vita questi due bambini, perché tutte le volte che sarà il compleanno uno dice ma sarà vero, ma sarà vero poi, sì, perché, sì, perché sì, a volte sai che le date delle nascite in passato venivano anche un po' aggiustate, però a seconda delle, però questi sono registrati all'anagrafe, uno nel 2015, l'altro nel 2016, quindi è una storia bellissima, per saperlo bisogna essere senza la parto. Comunque Paola non era non lei era la donna, non era lei, piace. Anche se è stato bello ripercorrere anche questa notizia. Che facciamo? Lo diamo un altro indizio? Aspettiamo, lo diamo. Sei tu il capo, Alessio. Vabbè, diamolo, va. Ha la testa tra le nuvole il nostro personaggio, eh? Ha la testa tra le nuvole, 800240024, è una donna e ha realizzato una impresa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, riprendiamo con qualche notizia sempre di questa settimana, questa è stata la settimana nella quale, diciamo, in casa Fiat c'è stato l'approdo a Piazza Affari della Ferrari, con la quotazione anche a Piazza Affari della Ferrari in borsa, diciamo, si completa lo scorporo, la divisione della Ferrari dal resto del gruppo Fiat Chrysler. Sentiamo Marchionne che ha parlato di Formula 1 e poi anche del suo futuro, ha escluso di volersi candidare in politica visto che va di moda. Permettetevi di una breve parentesi sulla scuderia. È iniziato da pochi giorni quello che per noi dovrebbe essere l'anno di ritorno in vetta. Possiamo contare adesso finalmente sui due campioni del mondo e abbiamo le persone giuste in ogni reparto per raggiungere l'unico vero obiettivo, è quello di riportare il titolo a Maranello. Beh, insomma, una dichiarazione ambiziosa di quelle che poi a fine anno ti vanno a riprendere. Esatto. Avevi detto questo, qualcuno sa come va a finire. Beh, insomma, sicuramente Marchionne è uno ambizioso. Sicuramente nello sport darsi degli obiettivi è importante, anche forse soprattutto in un sport non sport come la Formula 1, ma sentiamo l'altra dichiarazione, quella che diciamo è stata poi anche un po' ripresa dai giornali. Marchionne anche in questo caso fa una dichiarazione sul futuro: non farò mai politica. Che cosa vorrà fare dopo? E se vorrei fare il giornalista, questo esclude di candidarsi in politica? Mai. Se sono stato chiaro, mai. No, mai. Allora, questo è anche l'anno delle Olimpiadi di Rio. Vogliamo conoscere un italiano, un atleta, gareggerà alle Paralimpiadi, almeno io credo, spero, non so se sono già state fatte le qualificazioni, ce lo racconta lui, è un personaggio straordinario, su di lui è stato scritto anche un libro, Roberto La Barbera. Buongiorno e buona domenica. Buongiorno e buona domenica a tutti. Buongiorno. Roberto, gareggerai? È già sicuro? O ci sono delle qualifiche? Cioè, non è... Sì, ci sono. qualifiche, ci sono da fare dei minimi, io i minimi li ho già ottenuti, quest'anno devo consolidarli e sono sicuro di consolidarli, quindi sono abbastanza tranquillo per quanto riguarda Rio, però prima di Rio ci sono tappe molto più importanti, non molto più importanti, ci sono altre tappe molto importanti in Italia come i campionati europei a Grosseto, sì, per la prima volta in Italia, e quindi quello è un evento molto importante. Allora, il libro che è stato scritto su di te, Storia di un ragazzo in gamba, è scritto da Rolando Repossi, Edizioni dell'Orso, la tua storia, io la sintetizzo, ma adesso poi ce la racconterai, anche se ci interessa l'obiettivo Rio. Eri un ballerino a 18 anni, hai avuto un incidente in macchina, hai perso un piede. Due anni dopo questo incidente ti sei sposato, hai avuto tre figli, hai ripreso a ballare con tua moglie. Poi a un certo punto è arrivata anche la passione per lo sport e per l'atletica. Tu racconti che è accaduto vedendo la televisione. Sì, è accaduto una sera, mia moglie mi chiama, io arrivo veloce in cucina perché mi ha chiamato molto animatamente, e in televisione ho visto, facevano vedere la finale dei 100 metri olimpici di Barcellona, dove c'erano la batteria finale, tutti i ragazzi amputati come me, diciamo. Sì. Io non avevo assolutamente idea che si potesse. Che anno era? Che anno era? Barcellona l'82. E quindi? E l'anno in cui io ho visto questo filmato è stato più o meno nel 98. E da lì praticamente è stata una folgorazione, ha detto cavolo, si può fare. Innanzitutto una rabbia incredibile perché c'era poca informazione e io a quell'epoca avevo 30 anni, la gamba l'ho persa a 18, quindi capisci quanto tempo è passato dal momento in cui ho perso la gamba al momento in cui ho realizzato che si poteva correre. Io per me ormai il mio mondo era il ballo, lo era sempre stato e continuava ad esserlo. Al momento in cui ho visto questa corsa ho cominciato a interessarmi a tutto quanto, fino a quando l'ingegner Verni, che è stato praticamente l'anima iniziale di tutto, dell'INAIL di Vigorso di Budrio, mi ha procurato una protesi per cominciare l'attività sportiva, e da lì è cominciata la storia che dura ancora oggi. Ed è straordinario perché non soltanto superare un handicap così, riprendere una vita normale, ballare, cominciare a fare sport, e poi a che livelli? Perché capite che, insomma, arrivare alle... Tu sei stato già alle Olimpiadi di Atene. Ma io Olimpiadi ne ho fatte già... Vado verso la quarta praticamente, Olimpiadi. Quindi... Cioè Rio sarebbe la quarta. Rio sarebbe la quarta addirittura. Accidenti, ragazzi. Sì, beh, e in più ho letto questa cosa che mi è piaciuta molto, nel senso che tu facevi atletica da ragazzino, però hai dichiarato dicendo sì, ma la facevo giusto per saltare le lezioni del sabato quando c'erano le gare. Mi è piaciuta molto classico. Questa cosa, perché per tutti, sia per chi ha avuto un incidente o anche per chi non l'ha avuto, immaginarsi questo fatto che tu non è che fossi un atleta, non è che fossi già un atleta a 8 anni, a 10 anni, ti sei messo e hai riniziato, diciamo, da zero. Uno stupendo si può fare. Ero molto forte perché arrivavo agli italiani, i campionati regionali padroneggiavo per saltare i compiti in classe, diciamo. Cioè, però paura di sbagliare o... questo è un dato in più, in realtà eri già molto bravo, però sì, secondo me è un bellissimo messaggio anche di speranza, perché in realtà, come credo tu possa raccontarci, spiegarci meglio... nasce un serbatoio d'energie nuovo da un certo punto di vista, è un altro tipo di sfida, e dici io adesso voglio fare questa cosa, mi metto e la faccio, anche se sembra impossibile. Esatto, è un altro tipo di sfida, cioè io ho cominciato giusto per, io non ho mai pensato di arrivare a fare le Olimpiadi, cioè per me già ritornare in pista, ricorrere, fare qualche caretta a livello provinciale sarebbe stato il sogno della vita. Certo. In realtà poi con la passione, con Antonio Iacocca, che è stato il mio primo allenatore, uno degli atleti più forti d'Italia che ci siano stati, il poliziotto di Asti, mi ha preso sotto le sue grosse braccia da lanciatore e ha preteso che io cominciassi l'attività sportiva non solo nei lanci ma anche nella corsa, quindi ha cominciato a portarmi nelle colline dell'Astigiano a fare dei 10-12 km per volta, che io mentre lo facevo mi chiedevo che stiamo combinando qua. Io arrivavo alla fine che quando mi levavo la protesi da corsa e mettevo la protesi normale dopo aver fatto la doccia, c'era tanto di quel sangue che pensavo mi avessero scostato la gamba, qualche microbo con un coltello, che ne so. E allora, sai, dopo tre o quattro volte che continuava a succedere questo, io e lui ci siamo seduti e guardati in faccia, ma qui stiamo facendo qualche stupidaggine o continuiamo? Io gli ho risposto continuiamo, e fortunatamente quella risposta mi ha portato poi a correre forte. Cioè io ancora oggi corro in 11,5, 11,6, 100 metri. E, 11 e 6 centometri. Quindi la domanda che ti stavo per fare, non che è volevo tanto... farti raccontare agli ascoltatori, la tua disciplina. Le tue discipline sono la velocità. No, io sì, sono un velocista, sì. Io però sono, ho il record italiano ancora nei 100 metri, nei 400 metri. Sì. Io sono a livello mondiale, padroneggiavo nei 400 metri e nei 100 e nei 200 arrivavo tranquillamente in finale, però capisci che nei 100 e nei 200 metri io combatto con fenomeni, con gente di 22, 23 anni. Di 20 e tu anni. Ne hai 48, ragazzi, io perché 48. Roberto La Barbera che si accinge a fare la quarta Olimpiade a 48 anni. Quindi ragazzi, voi che siete lì a casa con la pancetta un po', ma non ce la faccio, ma non c'ho voglia, ma ragazzi... Esatto. Ma... Cioè, e soprattutto anni, quelli come me, che in realtà io i 100 metri credo di metterci 11 minuti, ecco, invece stiamo parlando di 11 secondi qui. Io ogni tanto vado a correre e poi penso, ma è freddo, piove, ma che me lo fa stare a casa. Esatto. Lì è la pazzia di stare 4-5 ore in pista che mi porta ad andare ancora forte. Adesso mi sto dedicando soltanto al salto in lungo, perché nel salto in lungo effettivamente sono fra i 3-4 atleti più forti al mondo e con possibilità di medaglie molto, molto alte, malgrado la mia età. E sono anche il primo atleta disabile in Italia a aver vinto un titolo italiano con atleti normodotati. Io due anni fa ho vinto i campionati italiani a Modena con i master. E quindi ho anche... Cioè hai gareggiato con... Questa è l'altra notizia incredibile, perché è un po' una cosa che ci chiediamo tutti, quanto sarebbe bello invece quando vedi le Paralimpiadi, dici sì, ma alcuni di questi potrebbero, o forse tutti, potrebbero tranquillamente fare il mazzo a quegli altri. E addirittura c'è chi dice, chi diceva per esempio che Pistorius era aiutato dalle sue protesi, quindi quasi che i normodotati avevano paura di gareggiare con lui, giusto? Certo, però sai, se alla fine lì c'era un pizzico di un via amputato confronto a un amputato come me, nella corsa è leggermente avvantaggiato. Certo. Però se proviamo a immaginare, se tutti i ragazzi al mondo che gli mancano due piedi si mettono due protesi, cioè non è che tutti corrono come correva Pistorius. Ma certo. Pistorius, effettivamente, cancellando tutto quello che è successo, parlando solo di atletica leggera, Pistorius era un fenomeno, perché era un quattrocentista pazzesco e quindi non era assolutamente grande. Ma è ovvio, certo. Ai suoi arti, perché se no tutti si mettono una protesi e saltano 7 metri. Direi che la controprova è che se me le metto io le protesi, anche se sono normodotato, secondo me non arrivo da nessuna parte e non sono degno nemmeno di portarti la borsa sulla pista. Senti, ma guarda, sai che Roma sai che Roma si è candidata alle Olimpiadi, no? 2024. Punti ad arrivare fin là? Guarda, io l'ho promesso a me stesso che se alle Olimpiadi saranno in Italia, io farò di tutto per tentare di esserci, perché come posso non smettere la carriera facendo un'Olimpiade in Italia? E io avrò i miei 56-57 anni, non mi interessa, ci provo. A meno che tua moglie non ti leghi alla sedia, dici, ma stai fermo. dove vai? Vado alle Olimpiadi. Ma la sedia perfetto, la porto dietro spesso e volentieri per fare in modo che non si stufi, perché lei da mo' che si è stufata di questa roba che io vado in giro per il mondo a fare. Allora ormai il trucco è portarmela dietro, ma giustamente è giusto che sia così. Ma è vero che vogliono fare un film sulla tua storia? Sì, è uscito un libro sulla mia vita. Rolando Repossi mi ha fatto un'intervista, sì, nel 2007, si è innamorato un po' di tutta la mia storia. Pronto. Sì, un film, quindi potrebbe arrivare un film, sì. Chi potrebbe essere storia l'attore? Chi potrebbe essere l'attore secondo te? L'attore hanno vociferato un certo Alex Minsky, americano, che è un ex combattente del Vietnam, che ha perso lui piede destro. No, pensavo un volto italiano, qualcuno che ti assomiglia, chi è che potrebbe dare il volto a Roberto La Barbera? Roberto, è stato un grande piacere averti con noi quest'oggi. Beh, insomma, facciamo così: da qui all'avvicinamento a Rio, alle Olimpiadi, ci risentiamo, ci racconti come stanno andando gli allenamenti, ci dai un po' di morale. Ti disturbiamo, in qualche modo veniamo a disturbarti. Faccio al film, così ci vediamo prima. Poi un salutone a quelli della Fiat, perché ne parlavate voi un attimino prima. Io sono un uomo immagine Fiat dal 2007. Questo non lo sapevamo, sembra caramba, che sorpresa, ma 2007. Va bene. E anche Adidas, perfetto. Giusto? Così. Sì, sono stato anche testimone dell'Adidas per 8 anni, adesso sono 2 anni che non lo sono. Ah, perfetto. E voglio ringraziare, visto che ne approfitto che sono per radio, il CEDACRI, perché io, se sono un atleta che sono oggi e vado incontro a fare la quinta Olimpiade, grazie alla società per cui lavoro dal 90. Benissimo. Che è una società leader in Italia dei servizi informatici, e quindi io ringrazio loro. E così abbiamo fatto anche ringraziamenti. Grazie a te, Roberto La Barbera. Esatto, grazie mille, perché è una società che gli permette di lavorare di giorno, allenarsi. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, andiamo in velocità verso il finale. Abbiamo ancora tempo però per gli ascoltatori. Monica da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io pensavo che il personaggio potesse essere Samantha Cristoforetti. Per quale notizia legata a lei? Per l'impresa che ha fatto nello spazio, è una donna, la testa tra le nuvole. Assolutamente, assolutamente, anche se non c'era, diciamo, notizia adesso, perché Samantha è stata il personaggio dell'anno scorso, direi tutto l'anno praticamente, diciamo, l'abbiamo seguita fin troppo. C'è sempre notizia su Samantha Cristoforetti, però non era lei, non avevamo scelto lei, perché in effetti questa settimana non è accaduto niente di particolare che la riguardasse. Grazie Monica. Andiamo con Osvaldo da Milano, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, buona domenica. Mi viene voglia quasi dare un indizio aggiuntivo, ma insomma non lo do. Osvaldo, semmai dopo. Sì. Prego. Niente, pensavo alla Beatrice che ha fatto la traversata dell'Inghilterra all'Australia. Mm-hmm. Tracy Taylor si chiama. Che ha fatto la traversata dalla Gran Bretagna. Il monoposto, sì, in aereo. 3 mesi, sì. È lei. No, io aspettavo che lei aggiungesse qualche dettaglio in più per spiegare bene questa notizia. Sì, sapevo che ha fatto questa traversata in 3 mesi su un monoposto. Sì, sì. Tracy Curtis Taylor, 53 anni, pilota britannica a bordo di un velivolo nel 1942, ha ripercorso a bassa quota le tappe, la rotta della leggendaria Amy Johnson, prima donna a volare in solitaria tra la Gran Bretagna e l'Australia nel 1930. Ci è piaciuta questa notizia perché è una di quelle storie che vanno a ritroso nel tempo a recuperare momenti, spazi, tempi perduti. Lei ha detto: viaggiare a bassa quota vedendo paesaggi, conformazioni geologiche, vegetazioni, è stata la più bella avventura del mondo. Pochissime persone hanno volato come ho fatto io. Bravo Osvaldo, hai indovinato? Complimenti. Complimenti. È anche abbastanza rischioso, direi, volare a bassa quota. Perché? Eh sì. Perché Osvaldo è pericoloso? No, visti i territori che si ha sorvolato, sì, qualche problemino politico c'è. Ecco, va bene. Grazie, porti a casa i biglietti e il catalogo della mostra di Barbie al MUDEC di Milano, organizzata dal gruppo 24 Ore. Complimenti, abbiamo assegnato il premio anche oggi. Visto che non ce l'aspettavamo. Vai. Pensavamo di tenerli noi i biglietti sto giro. Perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba. Non lasciano l'erba e no, se andiamo avanti così, chissà come si farà, chissà, chissà, chissà come si farà. E così la seconda storia che vi voglio raccontare è quella del pastore Serafino, al mondo antico chiuso nel suo cuore. La gente del 2000 ormai non crede più. Tene, avete a mente queste parole di Adriano Celentano, una scelta molto vintage musicale per l'ultima notizia. Ma perché è una storia che anche noi vi vogliamo raccontare. Esatto, tenete a mente queste parole perché ecco noi Donato Ottoborgo, che è un pastore. Buongiorno intanto. Buongiorno. Buongiorno. Siamo, buongiorno, buongiorno. Siamo, dove siamo? Valli del Natisone? Sì, siamo in comune di Torreano. Mm-hmm. Località Montina, sono in mezzo al bosco qua. Ah, in questo momento proprio, Donato, ti trovi in mezzo al bosco? Sì, mi tocca, perché io quando ho le pecore chiuse devo andare a vedere dove devono andare a pascolare. Per lì domani. Anche la domenica? Mangiano anche il giorno di Ferragosto. Giusto, e questa è un'ottima risposta. Sì, è un'ottima risposta, non è che uno la domenica non mangia. E se sei pecora devi andare al pascolo. Hai capito? Anche quando c'è la pioggia, quando c'è il sole, tira vento, c'è la bufera. Cioè, ogni tanto le potrai tenere ferme e li butti lì un po' di qualcosa. Cosa mangiano? I colcantini, pensavi, Alessio? Sì, sì, sì. Non si siamo può fare. Fortunati che abbiamo trovato qui in comune Torreano una stalla di riparo per i mesi più duri. Ah, bene. Ma oggi è bel tempo lì? Com'è? No, c'è nebbia e piovigina, ma pure roba da poco. Vabbè, a te Donato ti fa un baffo un po' di nebbia, un po' di pioggia? Un pastore... No, fa bene, perché fa solo bene. Gli audaci resistono. Alla nebbia? Sì, eh. Giusto, giusto. Io ho fatto più di 20 anni di edile, quindi il tempo brutto non è che mi faccia così paura. Certo. Ah, beh, quindi sei passato da lavorare nei cantieri a lavorare, diciamo, nei prati. Bravo, nei campi come era la mia famiglia un tempo, ecco. Certo. Perché vengo da una famiglia di contadini. E quante pecore hai intorno in questo momento? Adesso qui non ne ho nessuna perché l'ho chiusa in stalla adesso per essere un po' libero. Sennò hai visto, se no non riusciva a fare la telefonata con noi. Ah, ma quindi sei nel bosco perché ti piace la pioggerella, non è che... Cioè, è perché è l'unico punto dove c'è campo per il telefono. Però ci siamo persi, dobbiamo dare la notizia. Bravo, la notizia è questa. Ecco. Ah, perfetto, perfetto. La notizia scusa. È questa, c'è una campagna di Lega Ambiente che è questa, adotta una pecora contro l'abbandono dei prati di montagna. Cioè le pecore servono per fare la manutenzione dei prati di montagna. Gli operatori ecologici naturali. Bravo, esatto. Anche se tutti dicono che portano in giro che robe così, sono i bambini all'asilo che li lavavano con tutte le pesti e hanno pure i pidocchi. Ma se, come si fa ad adottare la pecora che poi è quella che porti tu a pascolare? Contatta la Lega Ambiente o l'azienda di Mario, che conoscete bene, e fate con voi. E io sono. No, qual è l'azienda di Mario? Io non la conosco, chiedo scusa, sono... Qual è l'azienda di Mario? Quello che ho collegato con la Lega Ambiente. Sono collegati loro. Ah. Io sono solo il custode delle pecore. Certo. Quindi sì, naturalmente si va chi conosce questo progetto vuole informarsi. Loro, sì? Sono il loro guardia del corpo. Il loro guardia del corpo. Certo. Chi vuole informarsi o chi conosce già questo progetto va dalla Lega Ambiente e può adottare queste pecore che poi tu porti a pascolare. In pratica si dà un quantitativo economico, così si fa l'adozione, e in cambio però si riceve qualcosa, perché sennò non avrebbe senso. Ma quello è il minimo, quello del formaggio. Sì. Certo. Siete tutti invitati, anche quelli che non collaborano, a venire a passare qualche giorno con me. È molto bello, anche pure quelli che non collaborano. Una ricompensa potrebbe essere anche questa. Il progetto funziona praticamente così: si adotta una deve pecora. Deve essere una grande famiglia, ognuno dà quello che può. Bellissimo. E tra quello che si riceve ci sono però, diciamolo, questi 3 kg di formaggio all'anno che sono poi l'incentivo per le persone a partecipare a questo progetto. Beh, è molto bello perché di solito sono spese, invece adotti la pecora e giustamente prendi il formaggio. So che tu ci tieni molto al tuo cane. Come? So che tu ci tieni molto al tuo cane. Come si chiama? È mio collega. Ah, Zara, giustissimo. Ti posso salutare? No, sì. Abbaia, Zara. Abbaia. Basta. Donne. Abbaia all'ordine di Donato, il cane. È come la suocera, se non smette più. Certo, ha un collega bravissimo che ha detto delle cose importanti qua. Come in radio. Si dice al pastore, in bocca al lupo. No, complimenti, buon lavoro. Buon lavoro. Io vi dico buona domenica. Va bene, ciao. Grazie mille. E noi ci fermiamo qua, ci ritroviamo sabato prossimo. E abbiamo si fatto può anche fare. Parlare il cane del pastore, ne siamo felicissimi. Grazie a Carmelo Lucella, regia, Lorenzo Nespoli, Andrea Piana, Claudia Schiattone. A sabato prossimo. Ciao, da Alessio Maurizio. E da Carlo Gabardini. Wow.